Il punto di Stefano Folli. Le grandi lobby frenano le riforme, dice il ministro della giustizia Cancellieri, come non darle ragione? L'Italia resta pur sempre il paese delle corporazioni, ognuna protesa a difendere una certa porzione di interessi, e non c'è dubbio che questo è un possente ostacolo ai cambiamenti. Tuttavia la politica non può fermarsi a questa considerazione e nemmeno dare l'impressione di rassegnarsi alla paralisi. La politica serve proprio per andare oltre le lobby e le corporazioni, il che è possibile quando c'è un disegno, la forza parlamentare per sostenerlo e la determinazione ad andare avanti. Il governo Letta possiede o dovrebbe possedere tutti e tre i requisiti, quindi è in grado di incrinare senza indugi la barriera corporativa. Se non lo fa una grande coalizione che rappresenta gran parte del Parlamento, chi mai potrà farlo?